Capitolo 14. Avvenne al tempo di Amrafel, re di Shinear, di Arioch, re di Ellasar, di Chedorlaomer, re di Elam, e di Tideal, re dei Goim, che essi mossero guerra a Bera, re di Sodoma, a Birsa, re di Gomorra, a Sineab, re di Adma, a Semeber, re di Seboim, e al re di Bela, cioè Soar. Tutti questi ultimi si radunarono nella valle di Siddim, che è il Mar Salato. Per 12 anni erano stati soggetti a Chedorlaomer e al 13° anno si erano ribellati. Nell'anno 14° Chedorlaomer e i re che erano con lui vennero e sconfissero i refei ad Asteroth-Carnaim, gli Zuzei ad Am, gli Emei nella pianura di Kiriataim e i Corei nella loro montagna di Seir fino a El Paran, che è presso il deserto. Poi tornarono indietro e vennero a En-Mispa, cioè Cades, e sconfissero gli Amalechiti su tutto il loro territorio, e così pure gli Amorei che abitavano ad Asason Tamar. Allora il re di Sodoma e il re di Gomorra, il re di Adma, il re di Seboim e il re di Bela, cioè Soar, uscirono e si schierarono in battaglia contro quelli nella valle di Siddim, contro Chedorlaomer, re di Elam, Tideal, re dei Goim, Amrafel, re di Shinear, e Arioch, re di Ellasar, 4 re contro 5. La valle di Siddim era piena di pozzi di bitume. I re di Sodoma e di Gomorra si diedero alla fuga e vi caddero dentro. Quelli che scamparono fuggirono al monte. I vincitori presero tutte le ricchezze di Sodoma e di Gomorra, tutti i loro viveri, e se ne andarono. Andandosene, presero anche Lot, figlio del fratello di Abramo, con i suoi beni. Lot abitava infatti a Sodoma. Ma uno degli scampati venne a informare Abramo, l'ebreo, che abitava alle querce di Mamre, l'amoreo, fratello di Escol e fratello di Aner, i quali avevano fatto alleanza con Abramo. Abramo, come ebbe udito che suo fratello era stato fatto prigioniero, armò 318 dei suoi più fidati servi, nati in casa sua, e inseguì i re fino a Dan. Divisa la sua schiera per assalirli di notte, egli con i suoi servi li sconfisse e li inseguì fino a Coba, che è a sinistra di Damasco. Recuperò così tutti i beni e ricondusse pure Lot, suo fratello, con i suoi beni, e anche le donne e il popolo. Come egli se ne tornava, dopo aver sconfitto Chedorlaomer e i re che erano con lui, il re di Sodoma gli andò incontro nella valle di Shave, cioè la valle del re. Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo. Egli benedisse Abramo dicendo: «Benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. Benedetto sia il Dio Altissimo che t'ha dato in mano i tuoi nemici». E Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Il re di Sodoma disse ad Abramo: «Dammi le persone, i beni prendili per te». Ma Abramo rispose al re di Sodoma: «Ho alzato la mia mano al Signore, il Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra, giurando che non avrei preso neppure un filo, né un laccio di sandalo di tutto ciò che ti appartiene, perché tu non abbia a dire: io ho arricchito Abramo. Nulla per me, tranne quello che hanno mangiato i giovani e la parte che spetta agli uomini che sono venuti con me, Aner, Escol e Mamre. Essi prendano la loro parte.